però volevo fare solo una piccola considerazione. Dal Milan e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao Mario. Ciao Mario immancabile, beh sì, in effetti, innanzitutto ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, il nostro ascoltatore canterino che avete sentito nella nostra mutevole sigla, adesso forse ha un po' più ragione, questa canzoncina l'avevamo sentita in diretta qualche tempo fa, quando di ragione ce l'ero un po' meno. Comunque, dopo lo shock vero di Lindsay Vonn, gravissimo infortunio fra rottura dei legamenti e del piatto tibiale, Ted Ligety, americano, vince il Super G mondiale di Schladming, dedica ovviamente il successo alla sfortunata, bravissima Lindsay, davanti secondo posto per il francese De Tessier, terzo l'eterno Axel Schwindal, Innerhofer che difendeva il titolo conquistato a Garmisch arriva soltanto settimo. Di tutto questo parleremo dopo, parlerete dopo di questo e di tutto quello che vorrete, 800240024 perché siete sempre tutti convocati. Tanto Silvio Berlusconi, ospite stamattina negli studi romani di Radio 24 per 9 in punto, ha detto non ho avuto nessun pensiero, nemmeno lo 0,0%, che Balotelli servisse alla campagna elettorale, poi ha spiegato che Mela Marcia valeva prima quando pensava potesse far danno allo spogliatoio, poi l'ha conosciuto, adesso tutto a posto, è un bravissimo ragazzo. Chi ci crede o chi non ci crede, alzi la mano, o meglio alzi il telefono, 800 24 00 24. Ho l'impressione che anche di questo parleremo dopo, così come di nazionale, però oggi è irresistibile la tentazione di partire da un uomo e da un, soprattutto un allenatore di calcio da record. Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita? Il gruppo è fatto di un giocatore validi e io sono estremamente convinto che ancora ci siano immagini per fare, per quello che pensiamo di poter fare, di raggiungere la salvezza. Forse meglio, perché no, tu che ne sai? Io non so neanche se allenerò ancora, perché sono molto stanco, sono molto provato e ho bisogno di recuperare, e ho bisogno di un riposo. L'idea nostra era quella lì, quella di prenderli subito, quindi di non farli giocare e poi una volta in possesso di palla di gestire la palla bene, di verticalizzare il gioco il più possibile. Non ho barato, né preparato mai. Potevano essere 3 punti e per il nostro cammino era tantissimo, saremmo stati praticamente salvi, direi quasi salvi. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa. Io faccio e sono l'allenatore. Io non vendo niente, non faccio rappresentante. Io son contentissimo della squadra che è stata costruita qua, avevo pochi dubbi che veniva costruita una buona squadra conoscendo il direttore. Quando è sera io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. I risultati sono quelli che determinano tutto. Molto, sono molto dispiaciuto, però si era instaurato un ottimo rapporto, peccato averlo dovuto interrompere. C'era molto rammarico da parte di tutti. Tu solda, io è... Beh, magari non 1 su 1000 ma 2 su 20. Abbiamo sentito frammenti d'archivio, Arrigoni, Guidolin, Ballardini, Colantuono, Delio Rossi, Mangia e infine Gasperini. 2 su 20, questa è la percentuale degli allenatori che sono arrivati a fine mandato, come nemmeno Monti, con il Palermo di Zamparini. Uno è Ballardini e l'altro è Bortolo Mutti, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Va bene il precariato, ma Palermo mi sembra troppo. Però è una realtà che è così. Quando si va a lavorare a Palermo sai che corri questi rischi, sai anche che Presidente ti mette a disposizione comunque sempre degli organici competitivi, a parte quest'anno effettivamente le difficoltà che sono poi subentrate, e il gioco vale la candela comunque, per cui chi è coinvolto in questa avventura a Palermo sa di dare incontro anche, ma così Palermo comunque un po' in generale, quando non ci sono i risultati poi alla fine devi mettere incontro sempre l'esonero. Palermo un po' di più, Palermo un po' di più, ma com'è lavorare con Zamparini sul collo? C'è un cellulare dedicato alle solo alle sue chiamate, chiama di notte, di giorno, passi le veline, com'è? Presidente è molto esigente, questo sicuro, però per l'esperienza che ho condiviso devo dire che mi ha stato abbastanza tranquillo, sono stati momenti comunque di difficoltà perché anch'io sono stato messo in discussione domenica sì, domenica no, e lì sempre un po' sulla graticola, però un po' per il mio carattere, un po' anche perché diciamo così, ho instaurato un rapporto di un certo tipo dove ho messo anche delle condizioni di avere una certa, diciamo così, cadenza nell'aggiornarci e non nel doverci per sempre, diciamo sempre doverci subire un certo tipo di confronto, e lui l'ha accettato, per cui avevamo le nostre diciamo i nostri appuntamenti telefonici ben definiti, sì. E per cui lì c'erano i nostri chiarimenti, i nostri punti di vista, i nostri confronti, e così è stato, e portò avanti un rapporto bene, positivo, e come ho detto prima, sempre sì. Anche con certe difficoltà comunque. Sarà perché lei è arrivato a fine mandato, a differenza di tutti gli altri. Può darsi. Anche per quello. Senta, comunque in generale, Mutti, è inutile, adesso io sento molti suoi colleghi, tutti, parlare di progetti, programmi, mi interessa una squadra con un progetto, un programma, mi sembrano parole che non ci stanno nel calcio di adesso, se devo dire la verità. Bisogna sparare tutto il meglio che si può, spremere tutto il meglio che si può con quello che si ha a disposizione e poi via. Beh sì, bene il nostro calcio, in sì. Altri posti non è così, onestamente. Il nostro è un calcio dove sappiamo bene i risultati sono alla base del progetto, per cui prima vengono i risultati, poi il progetto. E dopo se si riesce a condividere il tutto si arriva a termine. Però ormai è una consuetudine, si parte, si lavora su certe idee e quando queste idee non vengono, diciamo, non, i frutti non si vedono e le difficoltà nascono, è chiaro che poi sì. L'allenatore è l'anello debole, come chiaro, ti saluto, dobbiamo dirlo, ti saluto progetto e ti saluto allenatore. Senta, le chiedo 30 secondi di pazienza per il traffico e poi chiudiamo la nostra chiacchierata allargando un po' il discorso. Pretendo quando torno a casa che mi dicano sempre: eccellenza, è arrivato il signorino Tancredi. Tutti convocati. Volevo chiudere il discorso con Bortolo Mutti, l'unico insieme a Ballardini sopravvissuto, cioè arrivato a fine mandato a Palermo con Zamparini. Non ce l'ha fatta neanche lo Monaco, che a Catania sembrava il mago Merlino degli argentini, tanto che era stato corteggiato anche dall'Inter, via anche lui. Bortolo Mutti, volevo chiederle, in questo calcio senza progetti vale per il Palermo ma vale anche per tutti gli altri, se ne sta accorgendo pure Stramaccioni, che fino a poco tempo fa era il nuovo Mourinho e adesso è uno pseudo allenatore per qualcuno. Insomma, la storia di Stramaccioni la sappiamo, insomma, è stato proiettato in un progetto, come abbiamo detto prima. Io dico, mio punto di vista, più grande di lui, insomma, ecco. E dopo, per carità, ognuno è consapevole delle sue possibilità e le porta avanti, però è senza, diciamo così, una società dove effettivamente, lo dico, non ha le idee chiare, però ha dimostrato ultimamente di avere delle situazioni un pochino volubili. È chiaro che anche Stramaccioni, essendo giovane, va in difficoltà dopo, perché effettivamente le difficoltà si sono create e ci sono tuttora. Però ecco, io penso che sicuramente è bello iniziare, è bello avere l'opportunità, però l'Inter per me è una società che aveva bisogno allenatori, diciamo, di caratura internazionale, ecco, sotto, non è facile far nascere dei progetti così in modo un po' semplicistico. Sì, sì, sì, ha detto cose molto interessanti. Ma voi allenatori di lungo corso, quando vedete questi ragazzi passare adesso anche a Roma, passare dalla primavera o da, comunque dal settore giovanile alla panchina, che cosa provate? Cioè, c'è un po' di invidia oppure... No, per carità. No, fortunati loro, ben per loro. No, io sono sempre un po' per la meritocrazia a volte, dove ci sono anche dei passaggi fisiologici giusti nella crescita personale in una professione, per cui questo è il mio punto di vista, il mio pensiero, è quello che abbiamo fatto un po' tutti noi allenatori. Siamo partiti dal settore giovanile, abbiamo fatto la nostra gavetta C2, C1, C1, Serie B, Serie B, poi arriviamo in Serie A, sì, per dei meriti soprattutto. Mm. E per cui questo penso che sia una cosa per me sacrosanta. Poi, per carità, poi ci sono le eccezioni, c'è il Mancini che effettivamente viene proiettato subito in una situazione, ci sono queste situazioni così proprio esplosive dove c'è il giocatore importante che già la società intravede l'allenatore, diciamo, del suo progetto e ci punta, per cui non mai siamo abituati a questo, però sì, tendenzialmente il mio pensiero è quello, sì, ecco, la meritocrazia, esperienze di percorso che ti devono formare per la gestione di certe, certo, situazioni. Ma sono in linea di principio d'accordo anch'io, però ogni giorno quando sento la parola meritocrazia mi viene in mente anche il paese in cui viviamo e non solo per il pallone. Le chiedo ancora questo sulla stretta attualità stasera nazionale, per Prandelli Balotelli del Sharawi sono già qualcosa di speciale, non è un po' presto? Ma forse li carichiamo addosso un fardello un appunto, po' pesantuccio sti appunto, ragazzi, però è un po' la linfa nuova, è il nuovo che c'è, Insigne, Destro, questi ragazzi, sicuramente dobbiamo dar fiducia a loro e credere in questa loro crescita e talento, sono ragazzi sicuramente talentuosi e di grande prospettiva, nell'immediato magari non so se riusciranno a darci quelle soddisfazioni e ottenere quei risultati, però è il futuro nostro, è lì, sì, questo, certo, gruppo di ragazzi che sicuramente dobbiamo far crescere e dargli fiducia. Bortolomuti, la ringrazio. È stato un piacere, buona reciproco giornata. Buona giornata, ascoltatori, amici miei, dormite? Ci siete? Vi aspetto, 800 24 00 24 è il numero verde. Che siete convocati su qualunque argomento sportivo, come convocato è stato, come spesso accade, dalla Zanzara ieri sera Maurizio Zamparini. Volevo fare un regalo, sai, la scommessa che abbiamo fatto, però mancano i 50 euro. Ma l'hai fatta dagli amici di Un Giorno da Pecora, 5.000, non hai intenzione di dare quei 5.000 euro, sì o no? Li farò a Biagio Conte, perché hanno mandato i 50 euro di posta. Allora, cioè, com'era la storia? Biagio Conte è una comunità di Palermo che è data da mangiare a 1.000 poveri al giorno e da dormire altrettanti. Sì. Li daremo lì. Ah, li dai lì. Controlleremo, verificheremo nei prossimi giorni. Osvaldo da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Su cosa niente, si è volevo ha intervenire sull'acquisto di Balotelli. Sì. Io penso che sia stato puramente pilotato. Puramente pilotato da, sì, da chi o da cosa? Da Berlusconi, visto che ce ne racconta uno al giorno, non so perché su Balotelli non sarebbe quindi, stato così ingenuo. Quindi alle dichiarazioni rilasciate stamattina a Radio 24 lei non crede, punto? Assolutamente. Quindi mossa elettorale. Però, è un'altra mossa, un altro sì, show. Osvaldo, sì, voglio far notare però che è anche una mossa che ha un bel senso calcistico, vedo questo grosso campione. Lei no, io sì, qui questione di punti di vista, non lo vedo ancora, lo intravedo, spero lo diventi, ma per la nazionale soprattutto, spero diventi un fuoriclasse, perché può diventarlo se vuole Balotelli, però sarà anche mossa propagandistica, però ha un senso calcistico nella ricostruzione di una squadra più di quanto non fosse stato, mi viene in mente, Ronaldinho, sempre discorso analogo e periodo analogo. Certamente sarebbe stata pura demagogia l'ingaggio del vecchio panterone strapagato Drogba, non so se veramente c'è mai stata questa idea, una via di mezzo, operazione nostalgia o comunque una mossa abbastanza così velleitaria, secondo me, dal punto di vista sempre calcistico, sarebbe stato il ritorno di Kakà, almeno nell'immediato. Questo, tra i possibili colpi elettorali o meno, è stato certamente il migliore. Massimo Venezia, 800 24 00 24, numero verde. Ciao Carlo. Ciao Massimo. Ho sentito Zamparini con piacere e mi è venuta nostalgia perché io pensavo a Ventura, Vettino, Zaccheroni, Spalletti. Erano tutti livelli qui, che poi sono diventati importanti anche. Lo so. Allora, visto che ti è venuta nostalgia, te ne faccio venire un po' di più. Stai lì. Un altro Zamparini, sempre alla Zanzara. Non lo so quanto era il contratto. C'aveva un contratto buono per un anno, mi sembra. Da 400, dunque, alla 500. Fine, alla fine l'ha presi tutti, più i 300.000 dell'esonero. Sì, li prenderà tutti sicuramente. Cioè, c'è un mal di pancia pazzesco. Se solo mal di pancia triplo, sicuramente. Cioè, quasi un milione alla fine ci rimetti con questa storia di Gasperini. Ma un po' di meno, ma così. Insomma. Mamma speriamo. Mia. E se vado in Serie B ce ne rimetto 40, per cui è meglio che rimango in Serie A. Massimo. Sì, beh, noi andavamo al campo e quando c'era Zamparini era sempre divertente, perché non sapevi mai cosa potevi aspettarti. Comunque, a parte questo. Allenatori, ci sono ancora allenatori in Serie A, insomma in Serie B? Io sinceramente faccio fatica a pensare che siano allenatori, non riesco a vedere un allenatore, non so, penso che il più grande di tutti negli ultimi 10-15 anni sia stato Mourinho. Io non sono interista, assolutamente, che non ha mai parlato di calcio una sola volta nel periodo che è stato in Italia, almeno non gli ho mai sentito dire una cosa che avesse a che fare col calcio. È un genio. Salvo qualche rara eccezione. Beh, è un genio mediatico, certamente. È un genio nella gestione di gruppi importanti. È un genio nella gestione del personale, perché io sono dell'idea che oggi sia un mestiere molto diverso quello di allenare, dunque gestire un grande club che ha grandi contratti, ha giocatori che guadagnano più normalmente più dell'allenatore, a giocatori di lungo corso che sono nello spogliatoio da molto tempo. Insomma, sia un mestiere profondamente diverso allenare, dunque gestire, e l'aspetto gestionale prevale su quello pratico e tecnico del campo, allenare grande club piuttosto che il club di piccolo media caratura, dove pure questi problemi esistono. Ne abbiamo parlato ieri con Gigi Cagne, giustamente diceva, quando tu sei in un grande club non parli con un giocatore, spesso parli con un'azienda che ha il suo procuratore, che ha la sua opinione pubblica, eccetera eccetera, quindi lì l'aspetto tecnico-tattico del campo viene un po' meno, insomma. Giuseppe Milano, buongiorno. Salve, buongiorno. Io, dopo aver sentito mister Bartolomutti, volevo intervenire su Stramaccioni. Sì. Io interista ero tra quelli che erano molto felici del mister, lo sono ancora, anche se inizio a vedere che secondo me ha poca esperienza per la categoria. Mi riferisco soprattutto a come imposta la difesa, una difesa 3 che è assolutamente improponibile in questo momento nell'Inter e che lui continua costantemente a mettere in campo. Una difesa 3 la metti quando hai un centrocampo fortissimo, una difesa 3 contro la Roma è una cosa allucinante, ha sbagliato una volta, ha risbagliato un'altra volta rimettendola, sì. E solo perché la Roma ha sbagliato 50 gol non abbiamo perso alla lunga. E poi con una società che non lo mette sicuramente in aiuto, mi chiedo di Rocchi, che cosa è servito se noi giochiamo con Cambiasso centravanti, sì, comunque, Giuseppe, Palacio, che non è un centravanti. Giuseppe, comunque Stramaccioni, che lei dice avevo fiducia, adesso la fiducia è condizionata, dunque ci sarà il voto di fiducia da parte del popolo nerazzurro. Secondo me è stato anche discretamente sfigato, ma questo era da mettere in preventivo visto l'andamento delle ultime stagioni, nel perdere due giocatori determinanti come sono Samuel e Milito, quindi da questo punto di vista cambia moltissimo avere a disposizione questi due giocatori, la solidità di Samuel che da solo mette a posto un reparto e quella di Milito che quello della prima parte di stagione ogni volta che toccava la palla faceva gol, e lei lo sa meglio di me, quindi sì. volevo avere una sua idea anche sui nuovi acquisti. Io Schelotto lo seguivo già da quando è in Under 21, l'ho seguito nell'Atalanta e ha un'ottima corsa, ma con tutta la buona volontà veramente dei piedi di legno. Il centrocampista dello Stoccarda, molto geometra, molto tutto, ma è veramente di legno. Questo ragazzino, avete preso dei pinocchi? Beh, io non sono molto contento della campagna acquisti. Kovacic è molto bravo, però è anche ovviamente verdissimo, quindi non so cosa possa dare nell'immediato. I colpi li ha, ha talento, anche mi sembra una discreta faccia tosta, però ovviamente non è giudicabile dopo la pessima partita di Siena. Schelotto lo conosciamo piuttosto bene, non è certo il giocatore che cambia la squadra. Kuzmanovic è uno che non sarà di legno, ma il suo a centrocampo lo fa, non è anche lui quello che ti cambia la squadra. Dunque ci fermiamo per la borsa. Bruno da Genova, già collegato, spero che rimanga con noi. 800 24 00 24, e poi parliamo anche di sci. Non è che qualcuno ti vuole in Serie B, Maurizio? No, ma può darsi. No, io spero di no. Alla fine è colpa tua se vai in Serie B. Ma diciamo, io non andrò in Serie se B. Dove, mettiamo un pensiero lontanissimo: dovessi andare in Serie B, la colpa è solo tua, diciamola tutta. No, devo andare in Serie B, succede, e poi risaleremo in Serie A, non c'è problema. Sicuramente qualche sputacchio te lo prendi perché i tifosi sono arrabbiati. Non c'è nessun problema. Tutti convocati. Dunque, non c'è bisogno che Roberto mi ricordi via SMS che si sta giocando Sei Nazioni di rugby. Capisco che non è uno sport per tutti, ma anche i suoi ascoltatori si migliorano. Va bene, Roberto, non abbiamo dimenticato di già Sei Nazioni, tant'è che ne abbiamo parlato lunedì a lungo. E poi vorrei che passasse un concetto: vuole parlare di rugby, fa l'800240024 e facciamo una chiacchierata insieme. Non è che bisogna seguire la scaletta in questo programma. Di scalette non ce ne sono. Bruno, Genova. Ciao Carlo, grande Bruno. Radio, siete bravissimi. Grazie. Anche perché poi parlate di tutto, rugby, anche domenica sera ho ascoltato, fantastico. Io mi diverto così, sennò m'ammoscio. Ma io, sai cosa penso? Che purtroppo siamo un popolo senza memoria, perché non ci rendiamo conto un po' che, voglio dire, l'Inter è una squadra, insomma, basta vedere che 11 metri in campo. Sì. Prendersi con Stramaccioni è come sparare sulla Croce Rossa, secondo me. Un po' sì. poi la vedo, i migliori in campo sono Cambiasso e Zanetti e dico vabbè. Balotelli lo vendono 3 anni fa a Manchester City sapendo già che era destinato al Milan, perché era scritto nelle stelle? Era scritto. mi sembra quasi... fanno la Federcalcio le nuove elezioni e siamo sempre con i soliti pachidermi, elefanti, non so come si chiama, sì, mammut, Federcalcio, Lega, cioè ragazzi, sì dai, cioè, ma come si fa? Cioè veramente, poi dopo va bene gli articoli sui giornali, ci divertiamo tutti, però se si vuole fare qualcosa, cioè parlare seriamente, giustizia, calcio scommesse, tutte queste cose qua, bisogna che certi personaggi forse... No? Sì, no, infatti noi ne parliamo tutt'altro che seriamente, Bruno. Proviamo. No, ma infatti perché è un teatrino, no? Mi sembra chiaramente un teatrino, e poi ci sono quelli che ci credono sul serio, che si arrabbiano come le bestie. Però, insomma, è difficile non trovare, se si è un po' ironici, degli spunti per riderci sopra a queste cose che sono tutte verissime. Bruno, grazie, alla prossima. Alla prossima, complimenti ancora. Grazie davvero. Dunque, io prima di parlare di sci, seriamente, in questo caso, e di tornare al Super G di oggi e sul raccapricciante infortunio subito ieri dalla superstar Lindsay Vonn, voglio farvi sentire invece un altro allenatorino che è presentato alla guida della Roma dopo la vicenda Zeman, ha subito così gonfiato il petto, ha provato a fare la voce, non dico grossa, ma da duro, questo sì, Andrea Azzoli. Ecco perché non sono ansioso, io ragiono come se fra 3 anni sarò ancora allenatore della prima squadra della Roma, quindi lavoro in prospettiva. Voglio entusiasmo, la squadra deve avere entusiasmo che a volte dimostra di non avere. Voglio rendere Trigoria un posto positivo, un posto entro il quale si va, si entra, si vive bene, tutto quello che noi faremo sarà rivolto come energia verso la squadra, chi non lo farà è fuori. Non ho bisogno di aiuto di nessuno, nessuno mi deve aiutare, perché nessuno può aiutarmi in quello che io so che devo fare. Non voglio imporre niente, imporrò delle regole naturalmente che saranno poche ma tassative, oltre le quali non si può transigere, poche però, ma ferree. Non è un ragazzino Andreazzoli, questo sia chiaro, però sono parole abbastanza grosse considerando il momento della Roma, ragiono come se fossi tra 3 anni fossi ancora qui. Diamoci piano, poi vediamo cosa succede. Intanto io saluto e ringrazio, collegandoci con Schladming, il direttore tecnico della Nazionale Italiana Claudio Ravetto. Buongiorno. Buongiorno. Super G di oggi vinto da Ted Ligety, che fa la ovvia dedica a Lindsay Vonn. Secondo De Tessier, poi l'eterno Axel Swindal. Innerhofer difendeva il titolo di Garmisch, un settimo posto che come legge lei? Come possiamo leggere? Non benissimo. Non benissimo. Per noi è chiaramente la peggior gara della stagione, purtroppo è coincisa proprio con la gara dei mondiali. Un po' di concause, forse materiale, forse un po' la neve in una certa maniera, ma non voglio accampare scuse. Oggi non eravamo in gara, speriamo che nelle prossime di riuscire di imparare da questa giornata e di ritornare più competitivi come lo siamo stati nel resto della stagione. Quindi delusione certamente, ma come è giusto che sia e come sacrosanto che sia per chi vuole puntare in alto. L'episodio di ieri che ci ha fatto venire la pelle d'oca, quello relativo a Lindsay Vonn. Ad iniziare da Lindsay Vonn, senza respiro queste discese, 4 centesimi soltanto. Vediamo, aia, primo errore, un piccolo arretramento, ha dovuto recuperare abbastanza bene a tempo, anche se l'abbiamo vista rimbalzare un po' troppo e perdere la linea ideale, ma sappiamo che spesso nell'errore lei riesce incredibilmente a guadagnare. Salto. Qui non succede, aia. Attenzione, brutta caduta per Lindsay Vonn, che perde uno sci, adesso è sulla schiena e sta vigile, sta cercando di frenare la sua discesa. Vediamo se ha potuto. Si tiene sentiamo, il ginocchio sentiamo destro. Delle grida, purtroppo. Eccolo. È stata una bruttissima caduta, ma il danno c'è stato sull'atterraggio. Claudio Ravetto, pelle d'oca. Ma sì, l'ho vista anch'io, l'ho seguito la gara in televisione. Subito si è capito che era un incidente grave. Capita nel nostro mondo, conviviamo con questo tipo di infortuni. Chiaramente durante la rassegna mondiale uno degli atleti di punta, forse l'atleta più forte che si fa male in questa maniera, fa rumore, fa impressione, è un brutto colpo, fa rumore, però nel nostro mondo succede, è così, cioè, è da mettere in conto, legamenti e piatto tibiale la vedo lunga comunque. Sì, avrà difficoltà a rientrare, io spero che ce la faccia. Naturalmente. Senta, per tornare ai nostri, mi diceva restiamo comunque fiduciosi per le prossime gare. Ma sì, per forza, la stagione è stata super positiva, questo è stato un passaggio a vuoto, bisogna raccogliere le forze, magari riparlarci fra tutti noi, vedere cosa non ha funzionato oggi e abbiamo 2 giorni di prove su questa discesa e poi provare a ripartire. Queste piste, questa neve come sono? Difficili, mi pare. Ma no, le piste sono difficili, sono adatte, ripeto, non voglio trovare assolutamente nessuna scusa. Noi eravamo considerati fra i favoriti, avevamo almeno 4 atleti che potevano arrivare in medaglia. Oggi è stata una giornata storta, della classifica dall'alto, nelle posizioni alte mancano solo gli italiani. Grazie, buon lavoro e in bocca al lupo. Ci sentiamo presto. Grazie a Claudio Ravetto, direttore tecnico della Nazionale Italiana di sci. Ripeto, oggi è andata non bene con Innerhofer, che difendeva il titolo conquistato a Garmisch, il titolo mondiale conquistato a Garmisch. La sorpresa qui ovviamente era un sorvegliato speciale, non ha sciato bene e Claudio Ravetto non ha cercato nessun tipo di scusa, che sia la pista, la neve, i materiali. sono andati male anche gli altri azzurri, quindi non è stata una, insomma, così un debutto positivo. Mentre ieri c'è stata una ragazzina che ci ha così, che ci ha riempito il cuore, giovane bergamasca di 20 anni che non aspettavamo certo a questi livelli. 800240024 il numero verde per intervenire, siete sempre tutti convocati su ogni argomento. Ciao Mario. A proposito di ciao Mario, a Prandelli, parliamo dopo di Prandelli, se parliamo prima con Gianni da Torino e poi vi faccio sentire un paio di dichiarazioni interessanti di oggi di Cesare Prandelli. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo parlare del tennis. Certo. Visto che non si parla quasi mai nessuno. Ieri l'abbiamo fatto però. Ieri non. Dovete collegarvi tutti i giorni perché sennò poi mi dite io non parli. Vi ascolto praticamente sempre. Tutti i giorni. Ieri, mannaggia, c'era Bertolucci, c'era Bertolucci e abbiamo parlato ovviamente di te. Se vuole le faccio un riassunto. Comunque dica. No, niente, volevo parlare di questo perché abbiamo fatto una figura fantastica. Sì. E speriamo che vinca contro il Canada. Ma contro il Canada, anche a sentire Bertolucci, insomma, ce la possiamo fare. Adesso non alziamo troppo la testa, pedaliamo con la testa. Però è un ostacolo possibile. È un ostacolo possibile. Diciamo che se si capitava agli Stati Uniti, no. Se capitava la Spagna, che ha perso con le riserve della Spagna, hanno perso con il Canada. Adesso Nadal rientra dopo 7 mesi di infortunio. Sappiamo bene quale sia ormai la pill della Coppa Davis per le superstar del tennis, però insomma la Spagna ha perso con il Canada è a detta degli stessi tecnici duro ma battibile e dunque sì, ci andiamo. Infatti come la Francia nel rugby è fortissima, però sì, la Francia questo discorso un po' diverso, la Francia nel rugby mai avremmo pensato di ottenere questo risultato nella prima partita del Sei Nazioni, perché secondo me ha un significato enormemente diverso questa vittoria sulla Francia rispetto a quella che tanto abbiamo festeggiato di un paio di stagioni fa, perché quella Francia non aveva più niente da dire o da dare al torneo, si era presentata a scarica, non aveva più grandi obiettivi e perse con l'Italia. Questa Francia, vi ricordo che era la favorita ed è tuttora favorita numero uno per la vittoria del torneo, un passo avanti all'Inghilterra. Dunque, considerato tutto questo, io insisto a dire e non accetto grosse smentite su questo, che è la vittoria più importante nella storia del rugby italiano. Tutti convocati. Buongiorno, complimenti per la conduzione. Volevo dire che praticamente mi avete tolto tutto l'intervento che volevo fare io e l'ascoltatore di prima e adesso lei. Ma no, io non vi voglio tristi, Ragazzi, io vi voglio belli carichi. 800240024, nessuno ruba niente a nessuno e tutto vale in questo gazebo sportivo, direi. No, virtuale. Costantino, lei non è triste per niente. Grazie di essere stato convocato, di avermi convocato. Ma ci mancherebbe. Rugby, sì, importantissima la domenica, la partita, l'ho vista naturalmente da ex giocatore. Secondo me con la Francia era ancora più importante la volta che li battemmo a Grenoble di un solo punto. Sì, perché quella ci aprì la strada del Sei Nazioni. Capimmo che, ma ragazzi, ma siamo una squadra, non siamo una cozzaglia. Costantino, ho capito, siamo una squadra abituata a tante onorevoli sconfitte stucchevoli, per la verità. Nello sport sì. bisogna ogni tanto vincere, anzi bisognerebbe un po' più spesso vincere e centrare grandi risultati. Lei ricorda quella vittoria a Grenoble sulla Francia che ci permise, semplificando, di entrare nel giardino dell'Eden. Poi in questo giardino dell'Eden siamo stati spesso mandati in fondo alla tavola, no? E magari presi a mestolate di legno. Adesso questa vittoria sulla Francia ci dice che forse una squadra competitiva, che non sia solo simpatica, che non sia solo coraggiosa, che non sia solo estremamente glamour o pubblicizzata o investita di tutti i buoni valori che certamente circondano il rugby, nello sport, e vale anche per il rugby, bisogna vincere, e speriamo che l'Italia, non a caso con un altro allenatore francese dopo Villepreux, Coste e Berbizier, fa dei passi avanti, dopo i passi da gambero che sono fatti storicamente e puntualmente con gli allenatori dell'altro emisfero. Dunque, allenatori, aspettate un attimo, Mauro, Michele, Nicola, perché voglio farvi sentire Prandelli, che stamattina è tornato sul famoso codice etico. Gli è stato chiesto: ma questo codice etico vale sempre? Lo cambiamo? È possibile magari convocare i giocatori che si comportano male e metterli in castigo ad allenarsi senza poter giocare, quindi poterli valutare? Insomma, Prandelli ha risposto così. È un'idea, ci aveva pensato, a patto che voi non dovete intervistarlo. Va bene, d'accordo. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, perché non avevamo pensato anche noi, ma avevamo pensato anche noi anche a questa soluzione. La nostra preoccupazione era i media, ho detto, per questi due giorni sarebbe il giocatore più ricercato. Si allenano dunque, si allenerebbero dietro la lavagna, chissà che sia anche il codice etico della Roma, no? Qui faceva riferimento Zeman, e che poi pare sia stato così inasprito, ma questo codice etico sembra qualcosa che va e viene a seconda delle esigenze. Mauro Piacenza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo ringraziarla perché ieri ha fatto ascoltare la voce di Gigi Cagni, che a Piacenza ha rappresentato il calcio di provincia, il sano calcio di provincia. Non solo Piacenza. Ricordo l'umiltà di difendere i risultati, ma anche di fare i complimenti a campioni di squadre blasonate. Ed è un modo di intendere il calcio, è una città di provincia, secondo me molto molto bello. Io la capisco, in questi anni di vacche magre, gli anni di Gigi Cagni, sono stati, vi siete divertiti, insomma. Quindi ricordo una volta che segnò un gol bellissimo in Coppa Italia proprio a Piacenza, Ronaldo De Finte. E tutto lo stadio gli fece i complimenti. Stessa cosa avvenne con un gol di Tacquiri del Piero. La mia domanda era: io non vedo più questa umiltà nel calcio di provincia. Adesso qualsiasi cosa si fa polemica per l'errore arbitrale o altre giustificazioni, o si dà la colpa all'allenatore. Ma questo, Mauro, no, ma secondo me non molto è cambiato. Insomma, al di là di sporadici episodi, l'altra sera ho rivisto un gol d'antologia di Totti di qualche anno fa, applaudito dall'intero stadio di Marassi. Si giocava contro la Sampdoria. Per fortuna queste cose succedono ancora, ma sono talmente rare che ce le ricordiamo ad anni di distanza. Non mi sembra che sia cambiata molto l'aria, se devo essere sincero, sugli arbitri e su tutte queste menate che ci porteremo dietro sempre. Michele Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Di che parliamo? Di Cassano? Parliamo di Cassano, me la sentivo. Nulla, siccome si parlava di nazionale, mi chiedevo, va bene questa nuova linfa di questi giovani che sono ovviamente bravi, nuovi talenti. Prandelli sappiamo che ha voluto nuovamente Cassano in nazionale. Mi chiedevo come mai adesso queste nuove convocazioni Cassano non è presente. La mia riflessione era forse perché ancora deve recuperare la sua forma, lo vediamo spesso nell'Inter che non riesce magari a tenere tutti i 90 minuti e che gioca un po' in surplus, gioca un po' camminando, no? Gioca un po' camminando. Ma io credo che ovviamente Prandelli stia puntando ai mondiali che sono tra un po', quindi penso che voglia costruire una squadra, innanzitutto un'ossatura giovane. Poi credo che tenga in considerazione Cassano sulla base di quanto Cassano sarà in grado di dimostrare da qui ai mondiali. Se gioca da due grandi stagioni, se arriva in uno strepitoso momento di forma, allora io credo Prandelli possa pensare di portarselo dietro. Altrimenti può essere anche che sia un'esperienza chiusa quella di Cassano in nazionale. Nicola da Livorno. Buonasera. Buonasera. Senta, devo fare i complimenti per la trasmissione. E grazie. Poi volevo un po' parlare di questa Inter. Ha fatto degli acquisti ora. Ci voleva qualche pezzo in difesa invece centrocampisti e punte. Magari uno o due pezzi in difesa, perché così non si va più avanti. Ma un paio di pezzi li ha presi, dobbiamo valutarli meglio. Juan Jesus non mi sembra un cattivo giocatore. Certamente uno come Samuel non è disponibile. La grande differenza la fa quando Samuel gioca, insomma, perché migliora il rendimento di Ranocchia, fa giocare più sicuro l'intero reparto. È uno di quei pochi giocatori, ormai pochissimi difensori, che riesce a cambiare le sorti della squadra, a rendere da solo più solido un intero reparto. Ce ne sono ormai pochissimi di giocatori così. Mi viene in mente Thiago Silva o il Nesta dei tempi d'oro, eccetera eccetera. Purtroppo i difensori sono merce rara. Trovare quelli con queste caratteristiche è ormai quasi impossibile, anche perché chi ce li ha se li tiene. Chiudiamo con l'elegia di El Shaarawy, autore Cesare Prandelli. Questi sei mesi ha dimostrato di avere ottime qualità, deve soltanto mantenere questa generosità e questa umiltà, perché lo contraddistingue da tanti altri, perché oltre a far gol ha una grande disponibilità verso la squadra. La cosa straordinaria è che un ragazzo di 20 anni si è assunto una responsabilità importante ed è in questo momento un riferimento importante anche per la nazionale. E suonano i violini, speriamo suonino anche questa sera ad Amsterdam, dove l'Italia tra l'altro rispolvera e riscopre un altro giocatore che sembrava perso in chissà quali cunicoli, in chissà quali nebbie, cioè Santon. Sono molto curioso di vedere se questo giovane, che subito mi è sembrato qualcosa di non normale, qualcosa di speciale davvero per personalità e talento nell'Inter quando debuttò, poi si è perso per varie strade. Speriamo di recuperarlo, non sarebbe affatto male. Domani ne parliamo, con calma. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci fermiamo qui, domani alle 2, ciao. Un bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, nostri in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda? Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo.